cambiare. Vieni qua, lo sai che così troverai tutto ciò che vuoi. Cosa c'è di male immaginare noi in un letto king size, iniziare poi così lentamente ma giustamente, godere del passato, del futuro e presente. Potrei rinunciare sicuramente, ma si prevede qualcosa di interessante. Cosa ti piace, dai, dimmelo, non vedo l'ora di fartelo. Il desiderio più intimo nel mio orecchio sussurralo. Prenditi tempo, io attendo, non ho che non c'è rischio, noi il nome dormendo. Devi prendere da fuori tutto quello che ho dentro, devo fartelo sentire con un solo lamento. Sei così sexy che no, non mi controllo e sai che farei legarmi per poi farmi stupare da te. Sei così bella che no, non mi controllo, ora no. Non è tardi, baby, perciò prova a immaginare tutto quello che io ti farò. Lasciati andare, scoprirai quanto desiderio brucia in noi. Non devi nasconderti, non mai. Lo leggo negli occhi, non so che lo vuoi. La mia mente viaggia adesso, sai che non ha limiti. Se da basso su o dall'alto giù, ma sei sempre tu. Con lo sguardo slaccio, reggiseno si fru. Faccio come se niente fosse, conto in silenzio tutte le volte, tutte le mosse di questo mix. Tieni pure tu vestito in usoreggi X. Ti prego adesso avvicinati, guardami così poi toccami. Sei solo tu che mi ecciti in tutti i modi possibili. Te lo prometto, lo sai, non mi fermerò mai, mai, mai, mai. So per certo che lo farai, basta provocare adesso, dimmi che ci stai. Sei così calda, lo so, ti lascio sdraiare un po'. Non starò fermo però, se vuoi io mi muoverò. Sei così buona che sì, voglio leccarti così. Non andartene ora da qui, ma non lo faresti adesso, devi solo dire sì. Lasciati andare, scoprirai quanto desiderio brucia in noi. Non devi nasconderti, non mai. Lo leggo negli occhi, non so che lo vuoi. Adesso sai che non ha limiti. Io voglio se ti muovi così. Adesso vieni qui. Io voglio se ti muovi così. Io